di un piccone. Meglio il fiasco che il lampione. Meglio un tubo. Meglio il fiasco che un piccone. Che il lampione. Meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco. Vanne al diavolo in malora, più una donna di un fuoco dei garrini. Buonanotte, sì signora, ho finito l'impazzir. Vanne al diavolo, fuori in malora, più una donna Signora, una mezza risata. Ascolta l'italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar? Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non c'è. Che quel dì la conduci e te il concedo. Che dici? Va intanto del vascello il capitano a ricercare. E dia nome mio che egli di qua non parta senza di voi. Io mi tolga ormai a sì odiato soggiorno, tutto deggio accettar, vado e ritorno. Dunque deggio lasciarmi? Nell'Italia tu starai bene. Viva, viva il bei! E che Grecia lì? Liete novelle, una delle più belle e spiritose italiane. Che bene! Caduta d'estè con altri schiavi è in nostra mano. Or mi tengo da più del gran sultano. E le vino, adesso con l'italiano tu puoi apprezzarti a partire. Dulla, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio godere. E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio. C'ha di solito d'ore nel vero, agitore a bambare mi sento, un ignoto sale con vento, che mi trasporta e brillare mi fa. Modo soave contento mi trasportare e brillare mi fa. Un ignoto soave contento mi trasportare e brillare, brillare mi fa. Voi partite, ne vi ho m'annoiate. Coppa secco, che scambie, obbedite, ma secco, obbedite, voi la bella al mio seno guidate, ma prestate adorare la beltà, voi la bella al mio seno guidate, ma prestate adorare la beltà, sì la beltà, sì la beltà. Al mio fuoco il trasporto al desiderio, al resiste l'acceso dormito, questo caro trionfo novello, quanto dolce a quest'anima sarà. Al mio fuoco al trasporto al desiderio, non resiste l'acceso dormito, questo caro trionfo novello, quanto dolce a quest'anima sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, o da seco, non da scarpe, non venite, non venite. Al mio fuoco, al trasporto, al desiderio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello, quanto dolce a quest'alma sarà. Quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà. Quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà. Quanto dolce a quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma. Come on.

che pezzo la sole tono, ma conviene di simulo, ma conviene di simulo. Maltrattata dalla sole, condannata alle potete consolar. Mi salte dentro nel petto, che dolce fa di guardar. Che mi gente lotto, meglio mi può scappar. No, io sono da cante d'oro, meglio mi sa venar. No, che mi gente lotto, meglio mi può scappar. No, io sono da cante d'oro, meglio mi sa venar. O che muso mi sta venendo, l'Italia sta bisogno di Dio soffare. O che muso, o che pezzo, che figura, o che pezzo sta venendo il tuo sempre, sempre, sempre, ma vedono, non so comprendere dal gesto. Oh mio, che fulmine, non so rispondere. Amore, aiutami, per rispondere. Confusi e stupidi, incerti, vedono, non so comprendere dal gesto. Incerti vedono, non so comprendere dal gesto. Oh mio, che fulmine, non so rispondere. Amore, aiutami, per calice. Voci e stupidi, incerti vedono, non so comprendere dal gesto. Oh mio, che fulmine, non so rispondere. Thank you.

io non capisco niente. Vuol dire luogo tenente. E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria va destinato. Appunto, amico mio. Grazie, obbligato. Un appeso sulla testa, in quest'abito, mi imbroglio. Se vi fa la scusa, questa caimacante, se non voglio, e ringrazio il mio signore, dell'onore che vi fa. E ringrazio il mio signore, dell'onore che vi fa. Conto se li conto, il paro è pronto, e se accetto è mio dovere di portargli le candeliere. A Pompeo che vivi è questo, a Pompeo che vivi è questo, ma quel paro, Signor mio presto, non vi voglio disgustar. Caimacan, signor mio resto, non vi voglio disgustar. No. Caimacan, signor mio resto, non vi voglio disgustar. In bocca al lupo, chi pecora si fa, sono le mogli fra noi, quelle che formano i mariti. Or su, fate il mio voto, in questa stanza ritiratevi. E poi vedrete come Mustafa far danzar la testa. Che spirito ha costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti e sarà qui, finiamo di avvitarci, che li venga. Oh, sen viene, or tutta l'arte a me adoprar conviene. Thank you.

sia gentile. Muto mire, non star muta certo adesso. E mi dico la scena, io lo so, mio signor. Io guardatela. E come? Mi sicuro. E mi canzona. Mi lasciate. Andate alla malora, non sono un babuino. Andate alla malora, non sono un babuino. Ho inteso mia signora, la nota taccuino. Oh, mi prendi a gioco. Oh, mi prendi a gioco. E la farò pagar. E la farò pagar. O nelle vene un poco, più non mi so frenar. O nelle vene un poco, più non mi so frenar. No, no, mi so frenar. No, no, mi so frenar. Sento freddo, sento freddo. Pesando più dell'altre, l'arte di fare. trafinato e suol restar gabbato chi ne vorrà gabbar le femmine d'Italia son disinvolte scaltre secondare. Non puoi, per pacco, già saprai chi sono io. Non siete il signor zio. Ti pare? Come, come? Tu sai quel che ti importi ignoril me, ma per un qualche amante non t'ave confidato la signora. So che un amante adora, e per lui sono chella. Ebbene, son quell'io. Me ne consolo. Or su la tua nipote, con chi crede d'avere a che fare? Preso m'avria costei, e non dei suoi battei. Ma perdonate, e la tua è disposta. E vi dagnate? Dici davvero? Sentite in confidenza, e la mia vada a dirvi che sposi m'amò. D'amore. Ma detto infine, che a rendervi di lei sembrevi degno, e l'ha fatto il disegno con gran solennità fra canti e suoni. Piana tremolar dell'amorose fati e di volervi crear so pappataci. Pappataci, che mai sento? Pappataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, pappataci. E qual poi, che qual poi significa? Spiegatemi, vi prego. lasciatemi, vi prego. Ma taci. Nelle bellezze, fra gli scherzi, e le carezze, e dormire, poi mangiare, meditata impresa. morte. Thank you. che bel cola costei! Chi avria mai detto che un sì tenero affetto portasse al suo tappeto? Fare una trama, or vendere un bei, a rischiar tutto per esser via. Ai mai male, signore, vuoi buoni da me? Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna, e a seco il coro dei pappataci. Ed onorarmi dunque la bella, a tanta fretta. E l'amor che la sprona, oh benedetta. Oh!

presento, questo è un tradimento, campati, fulgati, ne siamo, signor, ne siamo campati, quanto signor? Io son pappataci, ma quei, mangetaci, ma voi, lascia far, ma io, lascia dir, voi me, che ho da far, voi me, che ho da far, restar o partir, restar o partir, del palo, se resto, se parco, il lampione, l'intoro, Isabella, so qua quelle buone, ma tutto l'ho mandato, non so più che dir, ma tutto l'ho mandato, non so più che dir. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。